Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E allora parleremo di turismo. Oggi è intervenuto il ministro Brambilla, ma insomma c'è la crisi, il crack del viaggio nel ventaglio, c'è la protesta di chi gestisce le stazioni balneari che dice il 20 luglio ombrelloni e lettini gratis per tutti. Ne approfitteremo. Ci sono dati un po' contrastanti tra come sta andando il turismo secondo il governo e come sta andando il turismo secondo gli operatori, e questo sarà anche il modo per capire e iniziare a entrare in un clima, vogliamo dire, più estivo. È l'ultima puntata che terminerà alle 18.30, dalla prossima settimana infatti Focus Economia entra nella programmazione estiva, terminerà alle 18. I mercati oggi offrono un ennesimo spunto negativo, ma non pesantissimo, meno 1,6%, non male come ieri. Certo, l'America perde l'1,6%, Francoforte l'1,7%, Parigi il 2% e Londra lo 0,60%. L'euro è vicinissimo a quota 1,30, siamo a 1,2940, per cui sempre in netto rafforzamento. E tra i titoli segnaliamo che a Milano vanno male, particolarmente male, Telecom Italia meno 4,60, Azimut meno 4,1, Italcementi meno 3,40, Mediolanum meno 3,1, CIR meno 3% e Unipol meno 2,80 come Autogrill e il Banco Popolare. Di cosa ci occuperemo oggi? Turismo, dicevo, ma anche il mercato immobiliare, oggi varie proiezioni di Nomisma, le borse. Sentiremo anche, perché all'interno del turismo sarà curioso capire qual è per esempio la seconda industria in Sardegna dopo la Saras per numero di addetti, è una struttura turistica. E poi arriveremo a una parte a cui tengo molto, forse così perché è l'ultimo venerdì prima della programmazione estiva. Chiuderemo con un po' di speranza. Stiamo raccontando, ahimè, anche quest'anno, da mesi, da inizio anno, una crisi che diventa crisi dell'occupazione, Pomigliano, Alcoa e quant'altro, una crisi che ancora diventa attacco speculativo al debito dei vari paesi, alle borse, all'euro, una crisi che insomma vede anche difficoltà nei conti pubblici, tant'è che abbiamo parlato e commentato fino a ieri una manovra finanziaria straordinaria che attacca le regioni, che riduce alcune disponibilità. Ecco, vorremmo chiudere questa settimana con un po' di speranza, raccontando una storia di chi si è trovato in estrema difficoltà per tutto un insieme di motivi, dall'età al posto in cui lavorava, all'idea di futuro, e da questa difficoltà è uscito più forte, perché ogni tanto capita anche così. Comunque, non ci commuoviamo subito, partiamo subito con le notizie in breve. Non do subito una risposta al 349-238-6666, Focus Economia come ogni anno e non da sempre, anche a Ferragosto, se non è festivo, anche il 31 di dicembre. Semplicemente la programmazione dal lunedì prossimo sarà dalle 17 alle 18 invece che dalle 17 alle 18.30. Io non ci sarò per un paio di settimane e poi torniamo, ci sarà Simone Spezia, insomma tutto come sempre, racconteremo la giornata economico-finanziaria semplicemente in forma un po' più ristretta. E allora il petrolio, meno 1,3%, resta comunque a $75 al barile, e l'estate torrida. Se l'estate non arriva, l'estate non arriva. Se poi fa caldo è torrida, vabbè. Ma i consumi di elettricità hanno segnato un nuovo picco, è il massimo del 2010, perché con questi giorni di temperatura record, secondo Terna, la domanda è stata alle 11.30 di questa mattina di 56.400 megawatt, siamo vicinissimi allo storico record, lo ricorderete, era il 20 luglio, eravamo in diretta pure allora, del 2007, quando si toccò un consumo di 56.589 megawatt. E l'euro, dicevo, non solo è vicinissimo a 1,30, ma l'ha anche superata oggi, intorno a metà giornata, è arrivato a 1,30, non capitava dal 10 maggio. qualcuno vuole sapere se mi porto il gufo in vacanza. Sì, siamo io, il gufo e qualcun altro sotto l'ombrellone. Andiamo avanti, stiamo seri. Allora, l'inflazione in America meno 0,1% in linea con le stime, e invece cala di nuovo un indice, quelli che si chiamano indici anticipatori. È l'indice sulla fiducia del Michigan, è calato a luglio a 66,5 punti. Allora, per quello che riguarda invece la domanda di obbligazioni di asset finanziari americani, in base ai dati diffusi oggi dal Tesoro, in sostanza il debito americano ha come primo cliente la Cina. La Cina ha praticamente 867 miliardi di obbligazioni di debito americano, è il primo paese, e il secondo è il Giappone. Volete sapere anche della riforma finanziaria, allora, e delle banche. Andiamo con ordine. Oggi è uscita la trimestrale di Bank of America, anche questa come JP Morgan ieri, le banche d'affari stanno festeggiando. 3 miliardi e 120 milioni di dollari di utile, leggermente in calo ma sopra ogni stima, brava anche Bank of America. Citigroup, anche lei, utile in calo ma meglio delle stime. L'utile a 2 miliardi e 730 milioni di dollari. Bravissime queste banche a riprendersi in così poco tempo. Ieri JP Morgan ha fatto più 76% di utile a 4 miliardi e 800 milioni. E poi Goldman Sachs. Molti di voi dicono anche da noi vogliamo che una banca paghi. Perché? Perché ha raggiunto un accordo con la SEC che dovrà pagare 550 milioni di dollari, che è la cifra maggiore mai versata per una multa da una società di Wall Street. La SEC, che è la Consob americana, aveva accusato Goldman Sachs di alcuni reati, di aver ingannato soprattutto gli investitori confezionando e vendendo prodotti derivati legati ai mutui subprime, quindi che sono diventati carta straccia. Ebbene, varie persone coinvolte, tra cui John Paulson, sugli strumenti da vendere. Insomma, per non andare a una controversia legale fino in fondo con la SEC, con la Consob americana, Goldman Sachs ha preferito pagare più di mezzo miliardo di dollari. E intanto Obama ha raccontato come la sua riforma su Wall Street protegga i consumatori, ha detto non possiamo permetterci un'altra crisi finanziaria, ed è finito, questo è il monito alle banche, poi chissà se è vero, ma comunque è finito il tempo dei salvataggi pubblici. Wall Street reform will bring greater security. La riforma di Wall Street darà una maggiore tutela ai consumatori, alle famiglie che cercano di acquistare la loro prima casa o che vogliono mandare i figli all'università. Questa riforma tutelerà i contribuenti che non devono pagare per gli errori commessi e per la mancanza di responsabilità di qualcun altro. Questa riforma tutelerà le piccole aziende e le piccole banche che operano onestamente seguendo le regole, gli azionisti e gli investitori che vogliono veder crescere le loro società. Non possiamo permetterci un'altra crisi finanziaria. Stiamo uscendo solo ora dall'ultima che ci ha colpito. Non possiamo ricostruire l'economia sugli stessi pilastri di qualche anno fa. Confusione nel settore delle carte di credito, immobili usati come sportello bancomat dalle società di Wall Street. La ricostruzione va fatta su fondamenta più solide, così da favorire la crescita economica. Ecco perché puntiamo su massicci investimenti in energia rinnovabile in tutto il paese, perché abbiamo riformato il sistema scolastico e perché abbiamo voluto questa riforma. Per proteggere i consumatori e mettere le basi per un sistema finanziario più forte e più sicuro. Un sistema finanziario innovativo, competitivo e impermeabile al panico e ai crolli. In questo modo vogliamo costruire un'economia più forte di prima e che dia opportunità agli americani. And collapse. This is how we're ultimately going to build an economy that is stronger than it was before, and one that provides opportunity for all Americans. Così Barack Obama e appunto molti ascoltatori scrivono, mai anche in Europa ci dovrebbe essere una banca che paga per aver consigliato strumenti troppo rischiosi. Vabbè, noi andiamo avanti invece con le notizie. Buono il dato italiano sul commercio con l'estero, a maggio più 17% l'export italiano, è il massimo dall'aprile del 2008, quindi nel periodo pre-crisi, e questo è veramente un elemento che speriamo poi possa consolidarsi, perché vorrebbe dire cambiare anche le prospettive di crescita e le stime sul PIL italiano. Anche le importazioni sono cresciute moltissimo, più 31%, che è un record dal 2000. Il saldo va in negativo perché sono cresciute più le importazioni delle esportazioni, in negativo il saldo della bilancia commerciale per quasi 2 miliardi di euro. Allora, questi indici non contano nulla, scrive uno ascoltatore, l'unico è il Baltic Dry Index, quello che misura quanto costa noleggiare un cargo per trasportare materiale che non sia petrolio. Ecco perché si chiama Dry. Ma volete sapere com'è andato? Va maluccio il Baltic Dry, è sceso intorno ai 2000 punti e dopo essere tornato a 4000 punti, per cui insomma sì, segnala un po' di rallentamento dell'attività. Vabbè, adesso iniziamo con il nostro primo tema. La notizia di mercato: Coin ha annunciato oggi attraverso OVS di aver acquistato una catena di 54 negozi specializzati nell'abbigliamento da bambino. Questa acquisizione porterà il gruppo ad avere 89 negozi dedicati all'offerta da bambino. Lo dico perché è un periodo in cui alcuni gruppi saltano per aria e ora ne parliamo, ma altri, e attenzione, questa è una costante che stiamo osservando, si ingrandiscono, si rafforzano, aumentano le dimensioni, vanno a fare shopping sul mercato, perché chi è sano adesso riesce anche a rafforzarsi all'interno di questa crisi. Comunque 349-238-6666. E allora il turismo, partendo da una brutta notizia, ossia il crack, il fallimento di uno storico marchio del mondo del turismo, del tour operator, uno dei più importanti, i Viaggi del Ventaglio. Allora, per quello che riguarda l'andamento oggi della vicenda Viaggi del Ventaglio, il Tribunale ha dichiarato ieri il fallimento della società che è stata messa a conglomerato preventivo, oggi, o meglio ieri, revocato. I legali del gruppo hanno chiesto la concessione di un'integrazione per la procedura di conglomerato preventivo, e siamo qui con Simone Filippetti del Sole 24 Ore per raccontare una vicenda che non avremmo voluto raccontare. Simone, buonasera. Buonasera a voi, radioascoltatori. Allora, buco da 200 milioni di euro e perdite accumulate superiori a 100 milioni, se ho ben capito. Che cosa ha portato al crack definitivo? Guarda, Ventaglio veniva da anni di difficoltà, sono almeno 3-4 anni che il gruppo aveva difficoltà a livello finanziario, di indebitamento e patrimonio netto. In realtà la situazione sembrava in qualche modo essersi risolta, perché a inizio anno aveva ottenuto l'accesso al concordato preventivo, che è una procedura concorsuale che permette di sostanzialmente tenere in stand by i debiti e far ripartire l'attività, e quindi in qualche modo tentare un salvataggio che è pilotato dal tribunale, perché è sotto l'egida della magistratura che avviene questo tipo di procedura. Se lo che poi il commissario giudiziale ha ravvisato alcuni elementi critici, conflitti di interesse, operazioni poco chiare, c'è una parte in cui sostanzialmente i creditori, che sono poi quelli che devono dare l'ok al salvataggio della società, di fatto coincidevano con gli amministratori, quindi c'era un conflitto di interesse. In base a questa serie di motivi ha richiesto la revoca, e così, diciamo, in maniera molto improvvisa, inaspettata, ieri il PM ha a sua volta richiesto il fallimento, il tribunale gliel'ha accordato, quindi di fatto nel giro di 24 ore la società è sostanzialmente Allora, qui ci sono due ordini di motivi di preoccupazione. Perché da un lato le preoccupazioni sui clienti di Viaggio e Ventaglio. Giustamente alcune associazioni di consumatori facevano notare come a un anno di distanza dal crack di Todomondo e Maier, che hanno lasciato l'anno scorso a casa migliaia di turisti durante le vacanze, sì, a piedi proprio. Qui c'è il rischio che la stessa cosa capiti con Viaggio e Ventaglio. Allora, da quello che abbiamo capito, la società Best Tours, che è una delle controllate di Viaggio e Ventaglio, sì, continua la sua attività di tour operator al di là delle vicende. Lo ha comunicato la stessa, sì, Best Tours in una nota. E va bene. Si sa altro sull'operatività del resto della società? No, però, come dire, per tranquillizzare gli ascoltatori va anche detto che in realtà l'attività di Ventaglio, che controlla alcune strutture come Venta Club, Viaggi del Ventaglio, Columbus, era già ridotta abbastanza ai minimi termini. Un giro per le agenzie turistiche conferma che sostanzialmente erano pochi i panchetti che venivano venduti, anche perché le agenzie di viaggio tendono a vendere chiaramente, come loro interesse, pacchetti di società sostanzialmente sane, difficilmente vendono. Quindi credo che, a differenza del crack nel corso delle società di cui parlavi, che furono molto più in qualche modo così non preannunciate da altre, da avvisaglie, in questo caso probabilmente l'impatto sul turista, sul vacanziere che si trova con un pacchetto comprato, non so cosa fare, dovrebbe essere abbastanza limitato. C'è comunque un fondo di garanzia che dovrebbe intervenire in questi casi. Allora, cerchiamo di capire cosa è successo, perché Viaggio di Ventaglio è stata fondata nel 1976, se non ricordo male, da Bruno Colombo. La famiglia Colombo era tuttora, insomma, l'azionista di riferimento, perché tra azioni dirette e indirette, insomma, aveva il 26% quasi del capitale sociale. Iniziano i problemi, tra l'altro, con tentativi di salvataggio, Simone, che iniziano addirittura nel 2006, quando entrò il fondo Cornell, poi si vendettero alcuni villaggi turistici di proprietà di Viaggio e Ventaglio, e anche loro avevano una compagnia aerea, che era la Livingstone. Sì, venduta a inizio 2009. Certo, ecco. Poi la ricerca di nuovi soci, tra l'altro gli ex soci di Blu Vacanze, Polygest, che si ritirano all'ultimo momento. Perché non si è arrivati a una forma di salvataggio? Cioè, cos'è che non funziona? Perché quando salta per aria un nome così blasonato, nonostante i tentativi, ci deve essere una spiegazione che va oltre la semplice gestione. Guarda, i motivi sono essenzialmente due. Un primo è di natura economico-finanziaria. C'è tutto il settore di chi fa tour operating, cioè agenzie di viaggio, in realtà è in grossa difficoltà, perché c'è la concorrenza di internet. Oggi molte persone si fanno le vacanze da sole, non vanno più in agenzia, poi ci sono le low cost, quindi oggi è un'offerta di, come dire, di pacchetti turistici enorme, per cui le aziende tradizionali stanno soffrendo. Questo però è un discorso generale. Il discorso più particolare è che in realtà, come tantissime aziende in Italia, aziende di gestione familiare, a un certo punto i manager non sono, la famiglia non è più in grado di sostanzialmente di far fronte alle sfide del mercato, e quindi questo in genera problemi che spesso poi si, come dire, portano a situazioni di disagio che poi sfociano in vere e proprie crisi. Nei vari anni la famiglia Colombo ha sempre cercato di mantenere il controllo sulla società, vedendo sempre di malocchio la diluizione o l'ingresso di altri soci. L'ha fatto soltanto quando non era, come dire, quando è stata messa alle corde, però a quel punto era evidentemente troppo tardi. Per cui, insomma, se vuoi, è un caso esemplare del capitalismo familiare italiano, dove a un certo punto la famiglia dovrebbe, come dire, fare giustamente un passo indietro. Dovrebbe capire quando è giusto anche mollare il colpo, se non riesce a gestire le cose. Invece, fino all'ultimo, ha voluto tenere lì. Poi c'è giustamente l'orgoglio del fondatore, tutto quello che vuoi, però, se poi il risultato deve essere quello che scompare il marchio oltre che la società, forse era meglio fare un passo indietro un po' prima. Nel 2009, 30 novembre 2009, il capogruppo Viaggio di Ventaglio, tra l'altro, è stata posta in liquidazione, e poi il 13 gennaio ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, però appunto anche perché controllava Venta Club, Viaggio di Ventaglio Resorts, Best Tours e appunto Columbus. A questo punto, Simone, per capire... Adesso la situazione è abbastanza complicata e seria, perché, come leggeranno i nostri lettori domani sul Sole 24 Ore, lo scenario più probabile è che parta un'indagine per bancarotta. Ora, la bancarotta, come tu sai meglio di me, può essere di tipo semplice o fraudolenta. Quale ipotesi scatterà? Non lo so. Per cui, però, è chiaramente uno scenario abbastanza difficile. Bisogna capire il ruolo della famiglia, i commissari liquidatori che sono stati, come dire, che loro direttamente coinvolti nel crack. E c'è, ricordiamo, Franco Tattò, insomma, che è una figura super consulente, super manager di Enel, RCS, insomma figura anche di primissimo piano nella finanza italiana. Più c'era una class action in corso, parità già a gennaio, per cui è, non stiamo parlando di un crack enorme come Parma, che fu 14 milioni di euro, però stiamo parlando comunque di una società che si porta dietro un sacco di problemi. Quanti dipendenti ha in tutto il Viaggio del Ventaglio? Ma in realtà si erano ridotti, ce ne sono circa un 150 a Genova, che è la parte più consistente, che sì, fa capo a Columbus. In realtà il grosso dei dipendenti era già uscito negli ultimi anni, dopo le sei decine di piani di ristrutturazione con tagli, sì, per pensionamenti, insomma, incentivazioni. Beh, almeno quello, cioè, ci dispiace moltissimo per i 150, ma almeno diciamo non erano le cifre di qualche anno fa. Staremo a vedere, perché di turismo noi continuiamo a parlare dopo il meteo e la pubblicità in maniera un po' più positiva. Certo che bisogna dare atto di questo, così come vi do un aggiornamento, visto che lo chiedete, al 349-238-6666 sulla vicenda allucinante di Tirrenia. Non si riesce a privatizzare la Tirrenia, e tra l'altro oggi ha detto l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha lanciato un allarme sul decreto legge che prevede il commissariamento di Tirrenia, perché dice in questo modo verrebbero salvati e si verrebbero esentati dalle responsabilità amministrative e contabili gli amministratori. E lì c'è un uomo che si chiama Pecorini, che è da 18 anni che guida la Tirrenia. Molte volte ce ne siamo occupati. Ecco, speriamo che non si arrivi ad avere un decreto in cui sostanzialmente non è colpa di nessuno, hanno tutti ragione, finita la festa, gabbato lo santo. Grazie a Simone Filippetti, a meteo, pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. Il turismo e poi la borsa, che ha chiuso con un meno 1,5%. Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico, fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, di cultura e di arte. È un paese straordinario che devi ancora scoprire. Impiega le tue vacanze per conoscere meglio l'Italia, la tua magica Italia. Ma starà andando veramente così come ha invitato in questo spot che ha fatto il giro di tutti i siti internet, voluto dal ministro Brambilla, il presidente del Consiglio Berlusconi, impiega le tue vacanze in Italia? Non si capisce, non si capisce veramente, perché oggi il ministro Brambilla è uscito con dei dati in cui dicono nei primi sei mesi le partenze degli italiani sono aumentate dell'8,5%, il fatturato però è calato in conseguenza della riduzione dei prezzi, siamo in linea con l'anno passato, e vabbè. Poi però ho in mano i dati diffusi da Federalberghi che dicono attenzione, crescita zero nei primi sei mesi, meno 3% gli occupati, abbiamo pure diminuito le tariffe, abbiamo perso appunto il 3% gli occupati e dal 5 al 7% nel fatturato delle nostre imprese. Cerchiamo di capire allora con chi rappresenta gli alberghi italiani, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, buonasera. Buonasera a tutti voi. Grazie anche, invece, quando io dicevo all'inizio del programma c'è un'industria che è la seconda industria della Sardegna dopo la Saras ed è un'industria del turismo alberghiera, si chiama Forte Village, grazie anche al direttore generale e amministratore delegato del gruppo, Lorenzo Giannuzzi, buonasera. Buonasera. Allora, presidente Bocca, poi capiremo invece quanto diciamo beneficio indotto può generare una struttura alberghiera, abbiamo preso il caso più grosso, più eclatante, però insomma... Poi ci arriviamo, perché sennò sembra sempre che si parli di albergatori solo quando ci sono dichiarazioni di redditi, obiettivamente, presidente, che lasciano un po' sorpresi. Però sta andando bene o male sta stagione? Io credo che innanzitutto bisogna fare chiarezza su che cosa si intenda per turista. Mm. Turista è colui che soggiorna fuori di casa. Stimare il turismo, valutare il turismo col numero delle partenze è una cosa che non ha senso, perché chi parte, chi può andare a trovare la zia in campagna. Mm. Viceversa, il turista è quello che soggiorna nelle strutture, per cui noi siamo certi dei nostri dati, noi abbiamo un osservatorio che rappresenta le nostre 27.000 aziende, che ci dice come nei sei mesi dell'anno i dati siano più o meno in linea con l'anno scorso in termini di presenze. Ciò detto, gli alberghi hanno calato in grossa parte i prezzi, e quindi ne deriva un calo del fatturato. Bisogna a questo aggiungere che purtroppo maggio e giugno le condizioni meteorologiche non sono state favorevoli e quindi la stagione balneare è cominciata in ritardo. questo non ci toglie un ottimismo per luglio e agosto, ma sicuramente nel primo semestre, insomma, le cose non sono andate bene, neanche male, insomma, in linea con l'anno precedente. Ecco, i cali, o meglio, le difficoltà più consistenti da dove arrivano, estero o Italia? Perché l'euro in realtà adesso si sta un po' rafforzando, è 1,30 oggi, ma negli ultimi mesi qualche boccata d'ossigeno ve la dovrebbe aver data sul turismo americano, sul turismo, diciamo, fuori dall'area euro, o no? Certo, l'euro debole sta aiutando soprattutto le città d'arte, che sono le destinazioni che in maggior parte vivono di turismo straniero, quindi turismo americano, turismo giapponese, turismo russo, tutti i mercati che si stanno ovviamente avvantaggiando di un euro debole. Se l'anno scorso era andato in crisi il mercato straniero, aveva tenuto il mercato italiano, quest'anno nei primi sei mesi diciamo che i maggiori cali li abbiamo sul turismo italiano, mentre il turismo straniero sta ricominciando a viaggiare e sta ricominciando a tornare in Italia. Allora, veniamo a voi come industria, lo facciamo come domanda a tutti gli ospiti che rappresentano il settore industriale di questo paese. Insomma, ormai si ripete fino all'ossessione che questa crisi non è una crisi ma una rivoluzione, che non passerà, che è cambiato il mondo, che deve cambiare la testa delle persone, che chi è sano e bravo ne uscirà rafforzato, chi è debole e incapace invece verrà spazzato via. Cos'è che state facendo voi come settore? E dico due cose: i prezzi in competizione con gli altri paesi, Presidente Bocca, da un lato, e i servizi offerto, perché qua alcune regioni, non tutte, non vogliamo generalizzare, ma si sono abituate a delle rendite di posizione delle volte anche non accettabili. Presidente Bocca. Sui prezzi, se è vero quello che lei sta dicendo, se è vero fino a qualche anno fa, oggi con l'avvento di internet e quindi con la possibilità del cliente in diretta di paragonare il prezzo delle strutture italiane a quelle francesi o a quelle inglesi o a quelle spagnole, voglio dire, per quanto riguarda i prezzi siamo assolutamente in linea con gli altri paesi. Abbiamo un problema di costi che viceversa è superiore a quello degli altri paesi. Basti pensare ad esempio che l'IVA in Italia sugli alberghi è il 10% contro il 5,5% della Francia, per cui voglio dire scontiamo un differenziale di 5 punti di fatturato rispetto ai nostri competitors. Credo che almeno all'interno dell'Europa bisognerebbe allineare queste aliquote IVA per giocare una partita ad armi sì, pari. Presidente Bocca, non facciamo sempre che la colpa degli altri. Io ti chiedo, come settore vostro, voi cosa potreste fare ai suoi associati? Lei che cosa chiede di fare? Perché poi l'IVA... faccio un esempio, insomma, tutti noi siamo stati in albergo, ci sono alberghi che le stelle se sono guadagnate e poi alberghi che proprio sfruttano il turista come selvaggina di passo. Allora lei ai suoi associati che cosa può dire come appello? Perché siccome questa modifica, questa rivoluzione resterà e qua si va alla guerra come alla guerra anche sui flussi turistici, l'invito, se mi passa il termine, alle sue truppe qual è? L'invito è di puntare sempre di più sulla qualità. Ovviamente l'Italia rispetto ad altri paesi non europei ma extraeuropei è un paese caro, è un paese che costa di più della Tunisia, del Marocco, della Croazia, di tutte le nuove destinazioni turistiche che si sono affacciate nel mondo internazionale, per cui noi la battaglia, non potendo vincerla sul prezzo, dobbiamo assolutamente vincerla sulla qualità. L'Italia è il paese più bello del mondo e quindi gli alberghi, ma non solo gli alberghi, perché troppe volte si dice che il turismo è solamente alberghi. No, è il pacchetto. Il turismo parte da quando il turista arriva all'aeroporto. E molti aeroporti italiani sono aeroporti del terzo mondo, voglio dire. I taxi, i ristoranti, gli alberghi, cioè tutto quello che rende piacevole il soggiorno di un visitatore. Noi crediamo che oggi bisogna assolutamente puntare sulla qualità, stringendo i denti in questo momento in cui ovviamente non si possono alzare le tariffe, perché puntando sulla qualità verranno sicuramente tempi migliori. E anche investendo per quello che uno ha come disponibilità finanziaria nella struttura. Allora, dicevo che, dottor Giannuzzi, voi siete come Forte Village la seconda industria della Sardegna. Quanti dipendenti avete? 1000 dipendenti nella stagione estiva. 1000? Sì. E quanti clienti? Clienti, negli 8 alberghi di cui è composta la struttura arriviamo ad ospitare simultaneamente intorno ai 1500 clienti. Quindi un rapporto altissimo. 1000 dipendenti, quanto fatturate? Intorno ai 70 milioni di euro. L'anno, con un margine operativo, con degli utili prima delle tasse? Diciamo. Intorno al 40%. Che è altissimo come percentuale, 40% di MOL o di BIT è altissimo. Come la crisi la sentite? Perché voi fascia alta, fascia altissima, oppure avete investito e questo vi ha dato un ritorno, mi dica. Beh, dunque, noi abbiamo ovviamente risentito un po' la crisi su certi segmenti di mercato di più rispetto ad altri, anche perché noi operiamo sia a livello di hotel di vacanze che anche a livello di struttura congressuale. Mm. Sul primo segmento, quello leisure. La stiamo perdendo, dove sta vicino al microfono, per favore. Mi sente? Sì, la ecco. sento. Prego. Stavo dicendo che sul segmento vacanze siamo in linea con i risultati dell'anno scorso. Devo dire che con un atto di coraggio non abbiamo abbassato le tariffe, il che ci sta premiando in un certo senso, perché insomma, eravamo fiduciosi di avere diciamo così, un riscontro positivo anche mantenendo una certa integrità di prezzo. E questo ci sta premiando, mentre invece sul segmento diciamo di spalla, di stagione di spalla, che è quello delle convention, dei meeting, dei congressi, lì ovviamente abbiamo risentito un po' della crisi. Ecco, voi diciamo, con 1000 dipendenti, che è una cifra enorme, quanti pasti fate al giorno per i dipendenti, solo per i dipendenti? Solo per i dipendenti sono in pensione completa, quindi praticamente 3000 pasti. 3000 pasti. Cioè, praticamente 3000 pasti solo per la struttura, cioè sono delle cucine dedicate solo alla struttura. Ecco, solo la struttura. Vorrei capire una cosa: avete investito in questi anni di difficoltà, perché comunque il settore anche della fascia medio-alta e alta ne ha risentito, oppure no? Sì, noi abbiamo investito l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, abbiamo investito 18 milioni di euro proprio per upgradare la struttura e diciamo che abbiamo aumentato il contingente di camere diciamo di lusso. E quindi insomma, quello è dove in effetti adesso stiamo capitalizzando, perché in effetti l'occupazione e l'interesse paradossalmente è molto superiore in quel tipo di struttura. I lavoratori vostri dove li prendete, chiedono gli ascoltatori, dalla Sardegna oppure? Il 95% sono sardi, devo dire che adesso abbiamo anche instaurato all'interno una scuola di formazione, abbiamo anche una business school insieme alla LUIS dove praticamente formiamo dei quadri per i ruoli manageriali, quindi abbiamo dei ragazzi laureati, che 23 di loro, che ogni anno frequentano questi corsi che durano 5 mesi, dopodiché per 6 mesi fanno degli stage e diciamo che molti dei quali li inseriamo all'interno delle nostre strutture. Allora, Presidente Bocca, adesso io devo dare il traffico per un minuto, poi al rientro vorrei concludere, poi passare alla borsa, con questo, cioè è chiaro che Forte Village è una struttura enorme, 1000 dipendenti, 3000 pasti per i dipendenti solo al giorno, però come modello si può spingere un po' di più anche nei vostri associati affinché investano per migliorare la struttura, se la qualità deve essere, quindi tenere meno soldi in banca, un po' come si chiede agli imprenditori, e metterli un po' più nell'azienda, e anche la formazione, l'approccio manageriale, delle volte sono gestiti un po' alla buona, in maniera familiare. Ecco, questo vorrebbe dire essere più competitivi a nostro avviso. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta, allora, Presidente Bocca, mutatis mutandis, ma insomma, investimenti, approccio manageriale, formazione, tra l'altro si diceva durante la pausa con il dottor Giannuzzi che di questi 1000 dipendenti 500 sono fissi, gli altri li cambiano, li ruotano, c'è un grosso lavoro di selezione. Non manca un po' di approccio manageriale, imprenditoriale delle volte nei suoi associati? Sicuramente il settore alberghiero italiano è fatto in grossa parte da piccole e medie aziende, quindi aziende che non sono fortemente strutturate dal punto di vista manageriale. In questi ultimi anni però si è cresciuto, c'è stata una grossa attività di formazione. Io credo che gli alberghi abbiano investito all'interno delle proprie strutture negli scorsi anni, con due difficoltà. La prima comunque con un accesso al credito che continua a essere complicato, soprattutto per aziende che molte volte sono in affitto e quindi non hanno le mura da dare in garanzia alle banche. In secondo luogo l'appello che noi facciamo è che negli ultimi anni abbiamo visto continuare incentivi a settori industriali che hanno più del 50% della manodopera all'estero. Il turismo non può delocalizzare, il dottor Giannuzzi, che saluto, ha dato un esempio di un'azienda che dà 900 posti di lavoro in Sardegna. Cerchiamo di premiare e privilegiare chi dà posti di lavoro in Italia e chi dà ricchezza in Italia. Ecco, se posso darvi un consiglio nel rapporto con le banche, però è chiaro che quando la dichiarazione dei redditi media di un albergatore è 13.000 euro lordi l'anno, probabilmente se c'è un po' troppa evasione, un po' troppo nero, anche il rapporto con la banca diventa più difficile, Presidente Bocca. Chiaramente non tutti, moltissimi sono... Anche tanti imprenditori non avrebbero titolo a essere finanziati, certo, eppure lo sono stati. Certo. No, ma insomma, vale per tutti. Il nero è una piaga nazionale, non è una piaga di un settore. Comunque, in bocca al lupo anche a lei e come sempre facciamo ai suoi associati, quindi agli albergatori italiani. Grazie anche all'amministratore delegato, direttore generale del Forte Village, quindi grazie a Benamo Bocca da un lato, presidente di Federalberghi, e a Lorenzo Giannuzzi dall'altro. Grazie. La borsa, ultima seduta della settimana, 1.5% di calo. Milano, peggio fa Parigi, -2.30%, Francoforte -1.80%, Londra -1%, l'America è pesantina adesso, è l'1.90% di calo. L'euro in rafforzamento non è più sopra quota 1.30, è arrivato anche sopra 1.30, 1.29.22. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te Sebastiano. Allora, come mai nonostante questi utili, ieri benissimo, JP Morgan, oggi Citigroup, Bank of America, tutte queste banche d'affari americane che hanno creato la crisi e mo sono state pronte leste ad uscirne, come mai, dicevo, nonostante questi utili, il mercato è così debole, e debole soprattutto sui bancari, anche se non solo su quelli? Ma oggi ha pesato ancora un ritorno, diciamo, di timori sul fronte macroeconomico americano. Tu segnalavi buone notizie sul fronte delle singole società e anche di alcuni settori produttivi, ma sul fronte macroeconomico oggi non è stata una buona giornata, perché all'inizio del pomeriggio, prima dell'apertura di Wall Street, una serie di dati americani, prezzi al consumo innanzitutto, i flussi netti di capitale e successivamente il deciso calo della fiducia dei consumatori statunitensi nel mese di luglio hanno portato a un'apertura negativa di Wall Street, hanno fatto invertire la rotta all'Europa. I settori più penalizzati, bancari, assicurativi e costruzioni, un po' i tre settori che siamo abituati a vedere essere molto penalizzati quando la giornata, insomma, non è delle migliori. E infatti così è andata anche a Milano. Telecom Italia -4.60, adesso ne parliamo, Azimut -4, Italcimenti -3.40, CIR -3.20, Mediolanum -3 come Unipol, il 2.80 l'ha perso Autogrill, il 2.60 il Banco Popolare, il 2.40 Fondiere Assai, ma anche Eni, il 2% il calo di Mediobanca e anche di Enel e delle Generali, l'1.70 invece quello che ha perso Luxottica e Finmeccanica, 1.5% Exor in pregilo. A2A, Atlantia, Lottomatica e Mediaset. Chi ha guadagnato? Parmalat lo 0,60, Ansaldo 0.5%. Telecom Italia. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia non c'è una notizia precisa che ha fatto che spieghi questo -4.5. Anzi, le notizie uscite oggi sono, se vogliamo, anche abbastanza positive, un recupero di quote di mercato da parte di Team Brasil e nello stesso direzione, cioè positiva, la vendita di una società olandese a Tele2 per 50 milioni, comunque con un impatto relativo sui conti. Va detto tuttavia che su Telecom Italia ormai da 2,5 mesi continuiamo a vedere lo stesso movimento del titolo. Il titolo non scende sotto gli 0,9 quando cerca di recuperare quota 1 euro e lo ha fatto fino a mercoledì, poi inizia a ritracciare ed è oggetto di realizzi. Vuoi da il congelamento dei licenziamenti da parte di Bernabé, però senz'altro un movimento tecnico che continua a penalizzare il titolo. Allora, Autogrill negativa perché il rafforzamento dell'euro significa indebolimento del dollaro, questo diciamo spesso. I Italcementi, insomma, ci si attendono dei risultati un po' deboli, Andrea, se ho ben capito, ecco perché il titolo soffre un po'. Stefanel, che succede dopo che ha fatto il 250%? Beh, oggi ultima giornata di negoziazione dei diritti dell'aumento di capitale, hai tu ricordato la performance assolutamente fuori dalla norma fatta durante il periodo precedente di aumento di capitale, siamo abituati a vedere diciamo, questi scostamenti, quindi oggi hanno prevalso completamente i realizzi nel giorno di chiusura dell'aumento. Allora, visto che parlavamo di viaggi del ventaglio, invece grandi viaggi fatto più 7,7%, i titoli li abbiamo dati praticamente tutti, ripeto, oggi non è una giornata di quelle particolarmente così, piene di notizie, il tracimento dovete sapere meno 3,4, C meno 3,20%, allora i migliori e peggiori, ancora un paio di titoli dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri SMS. Diciotto e nove minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, per quello che riguarda poi la borsa, volevamo concludere con i migliori e peggiori. Andrea Fontana, rapidamente, su Geox possiamo dire una cosa? Perché si sta un po' riprendendo. Si sta un po' riprendendo, aveva toccato i minimi nelle scorse settimane, infatti oggi è andato meglio del listino, ha perso solo 0,1, ma è stata a lungo la migliore del FTSE MIB. Ancora per quello che riguarda i titoli, volete sapere di Azimut meno 4%, migliori e peggiori in assoluto, dunque migliori grandi viaggi più 7,76%, B-Team più 4%, Meridiana più 3,80%, Zucchi più 3,50%, fronte opposto invece Stefanelle, l'abbiamo detto, Sopaf meno 6,38%, Philips meno 5, E.ON meno 5%, Icon meno 4,60, Telecom meno 4,60%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Grazie, buona serata. E adesso cambiamo veramente argomento, c'è anche un invito ogni tanto a parlare di qualcosa di positivo, parliamo, visto che è l'ultima puntata dell'edizione a un'ora e mezza di Focus Economia, per il resto dell'estate staremo a un'ora. Parliamo anche di questi sei mesi, cerchiamo di chiudere con un po' più di allegria, con un po' di speranza questi primi sei mesi dell'anno. Abbiamo scelto The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane, ci vuole un pazzo per, occorre essere pazzi per restare sani. E adesso forse capiremo anche perché. Perché nella vita si può sempre ricominciare, perché non vogliamo rubare spazio a programmi che già di questo si occupano nel corso del nostro palinsesto, però insomma un po' di fiducia, di speranza per i giovani, per quelli che in questo momento vedono lavoro interinale sparire, futuro accorciarsi, pensioni dilatarsi. Carlo Del Mistro, buonasera. Sì, buonasera a lei. Quanti anni ha? Io ho 29 anni. Allora, dove lavorava fino a due anni fa? Fino a due anni fa lavoravo a Londra per Lehman Brothers, la banca di investimento. Beh, conosciamo Lehman, è stato il crollo dei crolli. Bancari, il momento in cui si è capito che tutto rischiava di venire giù, ottobre del 2008. Allora, ci racconti un po' e poi vediamo se riusciamo a far capire anche a chi ne ascolta al 349-238-6666 perché ci è piaciuta la sua storia. Lei ha lavorato a Lehman fino a poco prima del crollo, poi si era preso un periodo di sospensione, un periodo sabbatico? Sì, esatto, nell'estate del 2007, quando avevo iniziato ad esserci i primi sentori della crisi, avevo partecipato a un programma di sabbatico in cui la banca sponsorizzava dei programmi di studio, ho fatto un MBA a Londra e quindi ho assistito all'esterno al crollo della banca. Cioè lei era fuori per un master pagato dalla banca e quando poi il master c'era non c'era più la banca. Esattamente, e quindi mi sono ritrovato praticamente senza lavoro da un giorno all'altro quando comunque facevo affidamento di tornare a lavorare per Lehman Brothers nel 2009. Lei cosa faceva per Lehman Brothers? Lavoravo in strategia, praticamente facevamo le acquisizioni per conto della banca. E insomma, veniva pagato bene immagino? Sì, era uno di quei lavori di cui tutti aspiravano, comunque tutti, tutti magari no, che lasciavano... tutti no, sì, comunque... però insomma tanti giovani italiani aspiravano, finita l'università, a cercare fortuna a Londra. Quanto guadagnava al mese? Tanto al la mese... banca non c'è più, si può dire. Sì, probabilmente erano intorno ai 10.000 sterline al mese, per cui sono sui 14.000 sì, euro lordi al mese. Esatto. Che comunque con la tassazione che c'è in Inghilterra significa più o meno, vado a spanne, sui 9.000 euro netti al mese, no? Sì, che praticamente per un quasi neolaureato, avevo 26 anni, era comunque uno stipendio difficile da raggiungere lavorando in Italia. No, non difficile, impossibile. Vabbè, quindi lei guadagnava 9.000 euro netti al mese, stava a Lehman Brothers, nella City di Londra, nella finanza, diciamo, degli dei dell'Olimpo, quelli che avevano capito tutto. Anche lei metteva i gemelli e il pinstripe suit e il gessato? Esattamente, era uno di tutti i lavoratori della finanza fotocopia che ogni mattina si svegliava alle 7, prendeva la metropolitana e andava a lavorare in quei palazzi di acciaio e vetro. Allora, quindi i suoi capi, i geni in gemelli e gessato, come li abbiamo chiamati, nel frattempo stavano allegramente danzando sopra il baratro, e poi a un certo momento il baratro è arrivato. Così! Poi racconteremo anche il resto, perché vogliamo chiudere, dopo, ripeto, dopo sei mesi passati di attacco speculativo alla lira, all'euro, alle obbligazioni, ai debiti dei paesi, alla manovra finanziaria, alla disoccupazione in aumento e ai mercati che non si riprendono, vorremmo chiudere con un po' di speranza, però, e di buone notizie, dopo il traffico. Allora, ultimo blocco di Focus Economia. Stavamo raccontando la storia di Carlo Del Mistro, ex dipendente, allora dipendente di Lehman Brothers, che insomma, una mattina, mentre sta facendo un master, praticamente scopre che la banca per cui lavorava, per cui guadagnava, come lei ci ha detto, praticamente 12.000 euro di allora al mese, la banca non c'è più. Dico bene, no? Lei stava frequentando un master a Londra e insomma una mattina sa del fallimento di Lehman Brothers. Quando le, insomma, quando le hanno telefonato per dare la notizia, cosa ha pensato? Ma diciamo, è stato abbastanza uno shock anche per tutte le persone che ci lavoravano. Comunque i miei colleghi continuavano a lavorare per la banca, addirittura il mio ex capo era in luna di miele. Era partito il lunedì e praticamente doveva stare via due settimane, è tornato all'improvviso perché l'hanno chiamato e hanno detto che la banca era fallita e doveva svuotare l'ufficio. E anch'io, quindi da un giorno all'altro, nessuno si sarebbe mai aspettato che il crack sarebbe stato così veloce, così improvviso. Comunque nessuno pensava anche ci sarebbe stato un crack, perché comunque era un momento in cui le banche venivano salvate dai governi. E quindi lì si sono trovati tutti abbastanza un po' spaesati. Lei pagava un mutuo? Sì, ho anche un mutuo. Vabbè, io vorrei capire cosa pensa un ragazzo di 27 anni che... lei che studi ha fatto in Italia? Che università ha fatto? La Bocconi. Non avevamo dubbi. Per cui proprio insomma sembra scelto la Bocconi, i gemelli, il gessato, tanti soldi per Lehman Brothers, la finanza intoccabile che guardava tutti dall'alto verso il basso, i suoi capi che si sentivano vicinissimi a Dio, quantomeno come consulenti finanziari, e poi tutto viene giù. Dicevo, cosa ha pensato con la prima reazione, anche quella dei giorni dopo? Beh, la prima reazione è stata sicuramente quella di sorpresa e anche di preoccupazione, perché comunque il crollo così improvviso di Lehman aveva minacciato l'intero sistema finanziario, quindi non solo Lehman Brothers ma anche tutte le altre banche americane e inglesi. E quindi no, ma dico nella sua, per, sulla sua vita che cosa ha pensato? Cioè torna in Italia, chiamo papà e mamma, cosa fa? Ma in quel momento l'ho visto, per la prima settimana ero molto, sono rimasto molto spaesato. Poi comunque ho pensato, visto che ero anche a fare questo periodo di studio, che forse c'erano anche altre opportunità al di fuori della banca. A me piace Londra, piace l'Inghilterra, e quindi non avevo particolare intenzione di tornare in Italia. Non è che però Londra e l'Inghilterra tra Northern Rock, Royal Bank of Scotland, migliaia e migliaia di licenziamenti, insomma, offrissero e offrono uno spettacolo. Abbiamo visto che programma di austerità ha messo in piedi il governo, uno spettacolo tanto attraente. Però lei voleva, insomma, restare a Londra. Sì, perché comunque credo nella flessibilità di un'economia, dell'economia inglese. Comunque sì, c'è la crisi. Ma non era un po' una ma uno che ha lavorato in Lehman Brothers, con tutto quello successo, non girava un po' come un appestato, no? Ma devo dire che sì, quel momento, cioè, quando uno porta il curriculum, dove hai lavorato? Lehman Brothers, vabbè, porti fuori anche un po' di sfiga forse, no? Ma c'è da dire che come me c'erano altri 14.000 dipendenti di Lehman Brothers che da un giorno all'altro hanno iniziato a mandare in giro il curriculum, e comunque come in tante altre banche c'erano solamente, erano poche le divisioni della banca che avevano causato il crollo, per cui sicuramente c'era una mancanza di supervisione ai piani alti, però era soprattutto alcune delle divisioni che avevano fatto le grandi perdite che poi hanno causato fallimento, perché la banca aveva tante divisioni che erano molto valide, che sono quelle che poi sono state comprate da Nomura, da Barclays. No, vabbè. Comunque, insomma, lei si è guardato attorno, non è che ci fosse un gran periodo per la finanza, il curriculum puzzava un po', mi passi il termine, e dove ha deciso di buttarsi, di rischiare? E quindi ho pensato di cambiare vita, ho pensato a cercare di voler fare qualcosa di imprenditoriale, visto che erano ormai 3 anni che già abitavo a Londra, mi sembrava che ci fosse un'opportunità per il gelato. Per fare qualcosa nel mondo del gelato. Da Lehman Brothers al gelato. Del Mistro aveva cambiato pusher nel frattempo? Sì, è quello che hanno pensato sia la mia famiglia che molti dei miei amici ed ex colleghi quando gli ho detto che ho iniziato a pensare ad aprire una gelateria, mi hanno guardato in maniera molto strana, e quindi ci sono stati momenti anche abbastanza complessi di relazioni familiari, come può immaginarsi. Ho fatto la boccone, comunque è venuto da prima in consulenza, poi in banca di investimento a Londra, aprire una gelateria sembrava a molti un po' un salto all'indietro, quindi era stato anche difficile giustificarlo. E il gelato, cioè, come lo voleva servire, col gemelli gessato oppure no, cosa? Che tipo di gelato voleva vendere lei? Volevo fare il vero gelato italiano, quello come fanno le gelaterie buone in Italia, però preparato per un ambiente che è quello inglese, per cui quello che mancava secondo me a Londra erano delle gelaterie che proponessero un prodotto di qualità, però venduto in un contesto un po' più inglese. Visto che lei veniva dalla finanza, Lehman Brothers, la Bocconi, McKinsey, le banche gli hanno prestati i soldi a Londra perlomeno? Purtroppo no. Quando siamo partiti nel 2008 era l'apice della crisi, e chiaramente, allora, prima di tutto il settore del consumo era un settore di quelli, diciamo, gli appestati. Nessuno voleva fare business con i piccoli business, perché erano quelli che avrebbero dovuto risentire più della crisi. In secondo luogo, io non avevo nessuna proprietà in Inghilterra, e quindi le banche, non potendo rifacersi su una proprietà in Inghilterra, tutto il mondo e paese, anche le banche inglesi in quel periodo non le hanno sganciato e soprattutto il gelato, perché visto che in Inghilterra ci sono pochissime gelaterie, nessuno capiva esattamente il business. Vabbè, i soldi dove li ha trovati però a questo punto? Quindi ho usato un po' le mie connessioni, un po' erano i miei sudati risparmi degli anni precedenti, un po' sono venuti da amici, conoscenti, alcune persone che lavoravano a Lehman che hanno creduto nell'idea, e quindi abbiamo racimolato il primo gruppo. Con quanto hai iniziato? Scusi? Con quanto hai iniziato? Abbiamo raccolto 300.000 sterline. Beh, non male all'inizio. E adesso come va? Adesso va molto bene, chiaramente il primo anno passando dalla carriera della banca di investimento a quella del gelataio ci sono stati un po' di traumi, per cui non avevo mai gestito un bar, e quindi imparare praticamente da zero a fare la gavetta del bar, e quindi mi alzavo alle 7 di mattina per andare al mercato a comprare la frutta, e poi per poi portarla nel nostro laboratorio di produzione, aiutare a fare il gelato, vendere, poi la sera chiudere la cassa, e quindi erano dei ritmi di lavoro anche più pesanti di quelli della banca di investimento. No, lo ridica questo. No, i ritmi di lavoro della gelateria alla fine sono stati molto più pesanti di quelli che sostenevo mentre ero nella banca di investimento. Cioè si lavora di più in gelateria che a Lehman Brothers? Sì, se la gelateria è la gelateria, la tua gelateria sì. Perché là c'è passione, che siamo aperti 7 giorni, e comunque quando la società è piccola bisogna fare un po' di tutto, per cui se qualcuno è ammalato, se c'è bisogno di andare a prendere qualcosa al mercato, e comunque sono comunque io che devo alzarmi e andare. Del Mistro, come va adesso? Adesso molto meglio, adesso dopo 2 anni siamo molto più organizzati, questa è la terza stagione per noi, e quindi lavoro sempre probabilmente... Quante gelaterie avete? Adesso ne abbiamo 4. Quanto fatturate? E quest'anno dovremmo arrivare a 1,5 milioni di sterline. E i soldi adesso le banche glieli danno? Adesso le banche si sono accorte di noi, e quindi all'inizio di quest'anno abbiamo ricevuto il primo prestito di 100.000 sterline da Royal Bank of Scotland, che è una di quelle banche che loro hanno fatto il crack, e adesso sì, per il 2011 abbiamo già buoni contatti e dovremmo riuscire ad accedere al credito in maniera molto più facile. Le manca Lehman? No, adesso non più. Ci tornerebbe? No, adesso in questo momento no, diciamo che lo stile di vita non ha ancora raggiunto i livelli di Lehman Brothers, comunque non è neanche paragonabile, perché il lavoro è duro e lo stipendio è molto basso, però diciamo che la soddisfazione del lavoro è molto maggiore. Mi aiuta a chiudere questa intervista con un invito a tutti i suoi coetanei, appunto lei ha 29 anni, ma questa avventura l'ha fatta tra i 26 e i 27, che... vedono davanti a sé solo precariato, futuro che si restringe, pensione che si allontana? Sì, io darei un consiglio a tutti di non desistere, comunque di credere, di essere in grado di creare qualcosa di bello, di importante, e di non, appunto, di avere fiducia nel futuro, e quindi con un po' di sforzo e combattendo si può raggiungere i propri desideri. Bocca al lupo, in bocca al lupo, caro Del Mistro, a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie mille, buona serata. Allora, nel salutare quest'ultimo passaggio delle 18.30 con Giuseppe Cruciani, hai sentito, Giuseppe, un italiano che non si piange addosso. Sì, un italiano che non si indigna, siccome è periodo di indignazione, questo ragazzo, questo imprenditore ormai non si è indignato, non si arrabbia, non si incazza, e ha perso il lavoro, si è fatto venire un'idea con degli amici ed eccolo qui in sella a non rimpiangere quello che è successo. E a lavorare un po' di più in gelateria che è Lehman Brothers. I temi, uno... Beh, i temi sono quelli che ci offre la politica quotidiana, cioè questo governo che pare perda consensi ed altre cose. Avremo un nuovo cantante. Berlusconi, oltre a Picella, pare aver scoperto un nuovo cantante per le sue feste. Lo sentiremo tra poco. E questo comunque ci tiene tutti quanti più risollevati. Grazie Giuseppe Cruciani, fra poco la Zanzara. Un ringraziamento a Barbara Bianchi, Mauro Del Conno e Gaia Romani per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di un buon fine settimana. Dalla settimana prossima Simone Spezia, noi ci risentiamo ad agosto.